No, no, ma andava, non lo faccio l'introduzione. Ma perché tanto alla fine vengono dette sempre le solite quattro cazzate e ti stanchi anche ad ascoltarle. Sì, è inutile. Bravo. Dai, allora, niente, dimmi quando devo partire. Ora? Vai, bella. Più mi sbatto per alzare la mia vetta, c'è sempre quel babbo che non mi rispetta. La mia vendetta è vicina, chissà se se l'aspetta. Se sono come un virus e la mia rima infetta. Già dalla prima strofa è un colpo che si assesta. Vieni nella mia zona a fare il coglione, ti facciamo la festa. L'ennesimo colpo che si insacca, se non ti rovina Zeus ti spacca. Mi basta un'entrata, già ti ammazzo, sono a testa di cazzo. La riprova che usi il Viagra al posto della lacca. Nella tua ignoranza di ciò che dico non capisci un'acca. Nel letto una polacca e per amante una vacca. Tra il vero e il falso ci confondiamo, darmi la merda è come pretendere di insegnare alla Gaglione l'italiano. Conosco Shiba, sono un suo seguace, tengo un solo polmone nel torace. Dopo le giornate al palco della pace, vesti alla moda, così ti dan del figo nella tua piazza. Le prese chiamato i canazza, questo prima di finire in ambulanza. Mentre ascolti questo pezzo mi scopo la tua se ragazza. Se c'è una cosa che non sopporto, le tipe menose si atteggiano da vacche e fanno mal di testa o le loro cose. Quelle che si credono emo ma restano delle posere, le tossiche che vengono con te solo per una dici dose. Che ti sembro Elvis con queste basette, ma lascio la chitarra per le tecniche perfette. Tu al massimo porti rime così scritte che le sottotitolano alla pagina 777. Il mondo virtuale come Morpheus risponde ai tuoi quesiti come Amadeus. Sono Mister Zeus, Mister Zeus, Mister Zeus. Dal mondo virtuale come Morpheus risponde ai tuoi quesiti come Amadeus. Sono Mister Zeus, Mister Zeus, Mister Zeus. Le rime che tengo in mente ti uccido lentamente come le sigarette. Tu stai rap come al cinema non vedente. Sono come un fantasma se arrivo inaspettatamente, non fare l'indifferente. Resti uno sfigato, fatti un esame di coscienza e verrai rimandato. Non dirmi che sono spietato di fare meno l'esaltato. O forse in nome degli dèi verrò fulminato, se non è già capitato. Una scossa che trapassa il mio cervello, lo brucia come uno spinello. Mister Zeus direttamente da Cinisello, tira sulle mani se vuoi fare più macello. Ma dove vuoi andare se non sei abbastanza sveglio? Tira sulle mani, fai sentire clap clap. Qui la reincarnazione del rap, scorrono rime nel mio DNA. Sono Zeus MC. Nella mia tomba non trovi scritto RIP ma RAP. Ci si deve arrangiare, se ho imparato di tutto ma devo imparare a perdonare. Dal mondo virtuale come Morpheus risponde ai tuoi quesiti come Amadeus. Sono Mister Zeus, Mister Zeus, Mister Zeus. Dal mondo virtuale come Morpheus risponde ai tuoi quesiti come Amadeus. Sono Mister Zeus, Mister Zeus, Mister Zeus. Paura a 360 gradi come Dead Space. Il mio flow lo pompi in macchina o dal mio MySpace. Number one come Al Pacino in Scarface. Alle tue puttane passo tra le gambe la Poste Pay. Non ho la cintura col mio nome inciso, non mi vesto con nessuno stile preciso. Siamo come truppe che avanzano e quando andiamo a ballare non ci rimbalzano. Vieni nella chat e vuoi fare il piccolo hacker, resti solo un lamer, non reggi l'attrito. Non sono né hacker né sucker, ma ti spacco di virus e con me c'è anche Mitor. Convinto che poi mi fai le scarpe, non vai da nessuna parte, solo una cartina e un filtro, per il resto rivolgiti a Sharp. Vuoi per la grana, ribaltiamo la sala, bella raga, omaggio ad Acenana. Ricordo il giorno in cui mi son ribattezzato, le prime rime che ho buttato, tipo un coltello mai affilato. Ora ogni mia rima ha la potenza di un carro armato e non mi fermo finché non mi danno il primato. Nel mondo virtuale come Morpheus risponde ai tuoi quesiti come Amadeus. Sono Mister Zeus, Mister Zeus, Mister Zeus. Dal mondo virtuale come Morpheus risponde ai tuoi quesiti come Amadeus. Sono Mister Zeus, Mister Zeus, Mister Zeus. Dal mondo virtuale come Morpheus risponde ai tuoi quesiti come Amadeus. Sono Mister Zeus, Mister Zeus, Mister Zeus. Dal mondo virtuale come Morpheus risponde ai tuoi quesiti come Amadeus. Sono Mister Zeus, Mister Zeus, Mister Zeus.